Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Una grande ricchezza in vestigia del passato come quella che troviamo in Italia offre molte opportunità, ma è anche fonte di complicazioni, per esempio quando si tratta di fare pianificazione urbanistica. Quante volte abbiamo sentito di opere pubbliche o anche private che nel corso degli scavi si sono imbattute in qualche reperto archeologico, con tutta una serie di complicazioni che vanno dalla necessità di mettere in sicurezza naturalmente i reperti o addirittura di modificare l'opera, e intanto sia come sia i lavori si fermano, si accumulano, ritardi, eccetera eccetera. Allora stasera continuiamo a parlare di GIS, di sistemi informativi e geografici tipo Google Maps per intendersi, per vedere come questi possano rendere più efficace appunto la pianificazione urbanistica in aree con presenza di reperti archeologici. E allora, nel corso del master di secondo livello in architettura per l'archeologia, progetti di valorizzazione del patrimonio culturale, master tenuto presso l'Università della Sapienza, è stato sviluppato un software, un modello di software che appunto consente di affrontare in modo nuovo questi problemi. Ne parliamo con la coordinatrice del master, Claudia Cecamore. Buonasera Cecamore. Buonasera, buonasera. Allora, insomma, ci dica subito che cosa fa questo software, che cosa ci si butta dentro, che cosa si tira fuori. Allora, detto in parole molto povere, ci si buttano dentro tutti i dati che noi abbiamo su una porzione di territorio, e questo software, questo modello anzi, tira fuori una codifica per le aree di territorio a seconda del rischio, o meglio del potenziale archeologico che hanno queste aree. E quindi abbiamo creato delle diverse categorie che abbiamo inserito su questo software, che è ArcGIS 10.2 nello specifico, i siti che erano stati rinvenuti, quindi le strutture sostanzialmente, i reperti puntuali. Sì, il vaso di Coccio per intendersi. Tombe a fossa o cose di questo tipo, delle cose che sono amovibili. Quindi dicevamo, le categorie sono tre, sono i siti, i reperti puntuali e poi, cosa interessante, non era mai stata, almeno quanto noi ne sappiamo, evidentemente elaborata, le non presenze, cioè le trincee e i carotaggi senza presenze archeologiche. Ecco, e qui arriviamo proprio al cuore infatti del problema, perché anche questa in realtà è un'informazione che consente di fare pianificazione, no? E qui capiamo bene che cosa fa questo software. Questo software poi elabora, fa delle analisi spaziali, e l'intera area che abbiamo preso in esame di volta in volta, diciamo, sì? Sì, si colora a seconda di una tipologia, insomma di un codice, di una percentuale. Ecco, questo software, in base ai dati, cioè a quanto è noto rispetto alla presenza di beni archeologici, di reperti archeologici in un'area, è in grado di stimare fuori dalle aree che sono state esplorate in modo preciso, sì, diciamo, quant'è la probabilità che anche lì ci sia qualcosa. Lei diceva, ci sono delle aree che proprio si colorano, e vuol dire per esempio in quell'area è più consigliabile costruire, perché è più improbabile magari imbattersi in, certo, qualche reperto, mentre in un'altra area è più probabile trovare qualcosa. Ecco, e questa probabilità viene calcolata in modo, diciamo, anche abbastanza sofisticato, no? Per esempio è la prima volta, come diceva, che si tiene conto anche di quelle ricerche fatte sul campo che non hanno portato alla scoperta di reperti archeologici. Perché è importante tener conto anche di queste rilevazioni? Certo, perché in una planimetria, diciamo, archeologica usuale, una pianta archeologica, noi abbiamo una serie di presenze. Al di fuori di quelle presenze, però, non è assolutamente detto che non ci sia nulla. Quindi è più interessante a chi deve progettare all'interno di quel territorio sapere che percentuale di potenziale archeologico hanno le zone dove non ci sono, diciamo, già visualizzati, certo, dei, perché voi non state cercando reperti, state cercando di evitarli, quindi è importante, no? Di evitarli, di proteggerli. Certo, certo, certo. Quali sono i contesti ideali in cui applicare questo tipo di modello software? Ma per il momento è stato testato su un'area abbastanza limitata e molto ben indagata del Comune di Roma, in accordo con la Sovrintendenza Capitolina, perché il fatto di essere ben indagata ci permetteva di verificare le possibilità di questo le previsioni modello che faceva appunto il vostro modello, certo. Assolutamente, sì. Dopodiché naturalmente può essere applicato in tutte le grandi infrastrutture, quindi strade, ferrovie, piani di zona e via dicendo, insomma, tutte le infrastrutture che occupano grandi parti di territorio. Peraltro ce lo prevede, ecco, insomma. Va bene, grazie, dottoressa Ceccamore. Grazie a lei, arrivederci. Buona serata.